per me non capisco con chi l'abbia costui, ma forse, e senza forse, il mio caso è peggior, e per serbetta mi vado consumando. Ella mi fugge e scaccia, neppur mi guarda in faccia, che farò per far che senta che non giova il pianto a piegar della donna il cor maligno, che è più duro di un ferro o di un macigno.